Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata i lavori delle commissioni assembleari sul contrasto alla violenza di genere e sulle misure di inclusione di Rom e Sinti, alcuni degli atti approvati dal Consiglio regionale in tema di editoria e impresa e le iniziative in ambito culturale e della memoria. L'Emilia Romagna è la seconda regione in Italia per numero di violenze contro le donne. È elevato l'allarme per le vittime che dopo una prima denuncia ritrattano. È il dato emerso in Commissione Parità, dove sono intervenute la Procuratrice Generale della Repubblica, Lucia Musti, e le rappresentanti di istituzioni e dei centri antiviolenza. Sentiamo Musti. Sono reati che hanno una indubbia matrice di natura culturale. Se non si riesce quindi a cambiare la testa degli uomini, ma anche delle donne, nel senso che anche noi abbiamo la nostra parte, e alludo ad esempio a un punto molto importante sulla ritrattazione, quando si presenta la querela e poi la si ritratta. Questi sono momenti processuali molto importanti, molto rilevanti. Nel 2022 in Emilia Romagna si è verificato il 10% dei femminicidi avvenuti in Italia, 11 sui 112 totali. Ai centri antiviolenza si sono rivolte oltre 3.700 donne. Il 94% di loro ha subito violenze, nell'88% dei casi psicologiche, nel 64% fisiche e nel 27% dei casi è stata denunciata una violenza sessuale. Da gennaio a ottobre 2022 sono state accolte nei centri 283 donne, aumentate del 22%, e 261 minori, un aumento del 9%. Ecco le parole della presidente del coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, Cristina Magnani. Sono dati purtroppo che si confermano di anno in anno, con lievi variabili, soprattutto per quanto riguarda la violenza sessuale. Quest'anno, nel 2022, abbiamo registrato un più 10% rispetto agli anni precedenti. Non sappiamo se questo dato vada letto, debba essere letto come un incremento delle violenze sessuali in genere, oppure soltanto come una maggiore emersione. Focus in commissione sul comune di Reggio Emilia. La prefetta Yolanda Rolli ha spiegato l'importanza di coinvolgere gli ordini professionali di medici e pediatri, ma anche estetisti, parrucchieri e artigiani, per avere una rete sensibile sul territorio che possa fornire alle donne tutte le informazioni utili. Determinante anche educare i giovani nelle scuole e insegnare loro un corretto utilizzo dei social. Ecco il commento della prefetta di Reggio, Yolanda Rolli. Importante lavorare molto sulla prevenzione, sulla consapevolezza sia delle donne che degli uomini maltrattanti. Cercare di far capire alle persone che devono guardarsi allo specchio e farsi delle domande: che cosa sta succedendo nel nostro ambito familiare, che cosa mi sta succedendo, che cosa sta succedendo alla persona che mi è accanto. Bisogna anche cercare di far capire quanto possa essere pericoloso l'uso dei social. Cambiamo argomento. Secondo una rilevazione regionale, sono 2.732, pari allo 0,06% della popolazione dell'Emilia-Romagna, le persone appartenenti alle comunità Sinti e Rom che vivono nei 137 insediamenti presenti in 36 comuni della regione. In maggioranza si tratta di Sinti, solo lo 0,5% sono Rom e nella quasi totalità hanno cittadinanza italiana. La provincia di Reggio Emilia è quella che registra la percentuale maggiore. Modena e Bologna. La Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali ha espresso a maggioranza parere positivo sulla relazione che fa il punto sullo stato di attuazione della legge per l'inclusione sociale di Rom e Sinti. La norma, approvata nel 2015, punta a superare le aree sosta di grandi dimensioni, oltre ad intervenire in materia di scuole, formazione, lavoro e sanità. Palma Costi, del Partito Democratico. Alcune azioni hanno riguardato soprattutto la costruzione di microaree, quindi aree che rispettano la loro cultura ma che permettono una integrazione di queste persone all'interno dei comuni, con un'attenzione particolare soprattutto rispetto ai bambini e alla possibilità che i bambini vadano a scuola e comunque partecipino alla vita della comunità. Diritti e doveri, questa è l'impostazione, ma sempre con una attenzione molto forte al rispetto delle minoranze. Le opposizioni hanno criticato le misure sostenute dalla regione. Sentiamo Daniele Marchetti della Lega. Stiamo parlando di oltre 770.000 euro che non hanno fatto altro che spalmare il problema su tutto il territorio con la creazione delle cosiddette microaree destinate a Rom e Sinti e aprendo oltretutto a deroghe sugli strumenti urbanistici, consentendo autorecupero, autocostruzioni in barba a qualsiasi normativa edilizia, concedendo oltretutto anche delle sanatorie per immobili costruiti abusivamente. Una bocciatura arriva anche da Fratelli d'Italia, la capogruppo Marta Evangelisti. Per noi è una bocciatura, lo avevamo già anticipato nel 2015 che questa legge non sarebbe stata risolutiva, permangono i problemi, soprattutto abusi edilizi, molte spese, poca integrazione, non era questa la strada da percorrere, si tratta pur sempre di cittadini italiani che dovrebbero avere appunto diritti e doveri tutti allo stesso modo. Per l'assessore Igor Taruffi, la legge per l'inclusione sociale di Rom e Sinti ha iniziato a produrre i suoi effetti, ma bisogna tener conto che le misure sono state attuate in un periodo influenzato dal Covid. I gruppi di maggioranza hanno espresso apprezzamento. Le parole del capogruppo di Emilia Romagna Coraggiosa, Federico Amico. La popolazione Rom e Sinti sconta un elemento pregiudiziale da parte della cittadinanza e l'accompagnamento delle amministrazioni locali è essenziale perché appunto progressivamente si sviluppino queste micro aree che danno maggiore sicurezza, opportunità e nello stesso tempo non trasfigurano quella che è la loro cultura e la loro modalità di essere nel mondo. Nell'ultima seduta di consiglio, l'Assemblea ha votato all'unanimità una risoluzione di solidarietà nei confronti dei giornalisti e dei lavoratori dell'agenzia di stampa Dire. Il documento unitario trae spunto da 3 risoluzioni originariamente presentate da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle ed Europa Verde. Per tutti i gruppi regionali, la priorità è intervenire celermente per scongiurare il piano di licenziamenti e salvare una realtà giornalistica di particolare valore. Sentiamo Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. È un'agenzia che offre un servizio di qualità, che però vede questa attività a rischio proprio per questioni di carattere gestionale e finanziario. Ho chiesto alla Regione di attenzionare appunto la problematica, di farsene carico. La Regione ha manifestato appunto il proprio interesse e anche la disponibilità eventualmente a convocare un tavolo regionale nel caso ce ne fosse bisogno. Quindi noi continueremo a seguire la vicenda, a stare dalla parte dei lavoratori. L'Assemblea ha approvato all'unanimità anche una risoluzione che chiede alla Regione di continuare a valorizzare tutta la filiera dei matrimoni, il cosiddetto wedding, anche valutando l'adozione di strategie volte a promuovere l'attrattività nazionale e internazionale dell'Emilia-Romagna quale luogo privilegiato nel quale celebrare e festeggiare le nozze. Sentiamo Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia e promotrice del documento. L'idea è quella di mettere insieme certamente i professionisti ma anche essere attrattivi per le persone fuori dalla regione che desiderano avere come cornice l'Emilia-Romagna ma anche gli stranieri. È come dire una valley dedicata a chi ha intenzione di passare momenti belli in una regione straordinaria che ha luoghi straordinari. In questo periodo sono tante le manifestazioni nelle piazze della regione per festeggiare il carnevale. Alcune hanno carattere storico e sono ben radicate nelle tradizioni locali. Nell'ottobre scorso l'Assemblea ha approvato una legge proprio per promuovere i carnevali storici dell'Emilia-Romagna e la norma sta facendo i primi passi con l'istituzione di uno speciale elenco dedicato e con l'assegnazione dei primi contributi. Ecco Francesca Marchetti del PD, presidente della Commissione Cultura. Già nel 2022 erano stati finanziati alcuni carnevali, quelli di Cento piuttosto che quello di San Giovanni Persiceto e Gambettola, un sostegno ulteriore, un ulteriore tassello, quelle che sono politiche che vogliono valorizzare le tradizioni e i luoghi anche di aggregazione di socialità rappresentati dai carnevali. Le isole magiche dipinte da Bruno Benuzzi, i paesaggi di Giovanni Ciangottini, i modelli delle automobili realizzate a mano dai maestri carrozzieri modenesi sono protagonisti delle mostre allestite nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna per Art City, la manifestazione internazionale che Bologna dedica all'arte. Le mostre rimangono aperte ad ingresso libero anche in questi giorni. Rimaniamo in tema culturale. Per il prossimo giorno del ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, la Biblioteca dell'Assemblea Legislativa il 9 febbraio promuove un incontro aperto al pubblico con Chiara Sirk, presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Presenti anche lo storico Luca Alessandrini, Vittorio D'Augusta, esule fiumano, e Francesco Merini, dell'Associazione Documentaristi Emilia Romagna. Un momento di riflessione che anticipa il giorno del ricordo che ricorre ogni anno il 10 febbraio. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati, seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.emr.it. Grazie per essere stati in ascolto. Assemblea On Air.